Mercato di Stefano Folli. E così si ritorna sulla terra. Nel calcio più che un ritorno è una caduta a picco rovinosa. In altri campi è una presa d'atto che il cammino è in salita. Le riforme in 100 giorni diventano le riforme in 1000 giorni. L'idea di cambiare verso all'Europa si scontra con il no della Germania alle facili speranze di un allentamento del rigore. Sbagliata anche la fotografia di chi vede falchi e colombe confrontarsi a Berlino. Meglio convincersi che quelle che a noi sembrano due tesi contrapposte siano in realtà due facce della stessa medaglia. Angela Merkel talvolta usa un registro politico per parlare agli altri governi dell'Unione, ma la sostanza è quella di sempre. Battute e slogan servono a poco, come ha ben compreso Renzi, che infatti ora è prudente. E se in Europa la strada sarà lunga, in Italia i progetti riformatori, pur validi, sono ancora sogni, sia sul Senato sia sulla legge elettorale. E non parliamo della riforma del lavoro, che sembra persa nelle nebbie. Eppure il Premier è ancora in luna di miele con gli italiani, non sappiamo per quanto.